versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta in diretta qui dagli studi di Milano della radio, 16:31 primi 40 secondi. Vi ringrazio di essere in ascolto, di scaricarci in podcast come sempre, e vi dice subito l'argomento della puntata per decidere se chiamarci all'800240024, gli sms al 349-238-6666. È una puntata dedicata non solo, ma innanzitutto agli ascoltatori e lettori che lo sono stato in passato o magari sono stati poi delusi della sinistra, perché noi partiamo dalla notizia, lo sapete, nel fine settimana di Jeremy Corbyn, che è diventato a sorpresa, non troppo, ma comunque leader del partito laburista britannico, perché hanno aperto le primarie a chi pagava 3 sterline, non solo agli iscritti, e quindi c'è stato un enorme voto di più radicale a sinistra. È una leadership particolare quella di Jeremy Corbyn, è uno che sta alla Camera dei Comuni dall'83, ha votato più di 500 volte contro il suo partito, è di una sinistra molto netta, cioè vuole rinazionalizzare le banche, levare l'autonomia a Bank of England, è anti-americano, votò contro tutte le guerre dall'Iraq all'Afghanistan, simpatizza per Hamas ed Hezbollah e per i palestinesi, vuole uscire, dipendesse da lui, non solo moratorio unilaterale, rinuncia alle armi nucleari britanniche, ma sulla NATO ha molti problemi, non è affatto un europeista, eccetera eccetera. Allora la domanda diventa: che cosa vuol dire questo non solo per la sinistra britannica, questo vedremo, ma cosa vuol dire ai vostri occhi? Perché se sommiamo questa leadership laburista a Podemos in Spagna, Tsipras e Syriza in Grecia, si vota domenica tra l'altro, e ci leggiamo anche lo scontro molto duro tra gli oppositori all'interno del PD rispetto a Renzi, la domanda diventa: come la pensate? Cioè, è solo nostalgia verso il passato, lo Stato, il marxismo, la critica al mercato, oppure c'è un fenomeno per cui la sinistra radicale diventa una risposta alle diverse e non paragonabili crisi nazionali? Voi come la pensate? È molto facile, come ovvio, ridurre il tutto a un fenomeno di colore e dire che è un puro errore di una sinistra che non fa i conti con la storia, però la questione c'è. E quindi vi chiedo come la pensate voi. Prima di questo, prima di presentarvi due ospiti, perché affrontiamo con due ospiti diversi, prima un analista che oggi scrive un articolo della tesi netta, cioè dice Corbyn incarna solo la protesta, poi sentiamo un oppositore all'interno del PD, un parlamentare che da come si legge il Senato al ruolo dello Stato nell'economia non si nasconde dietro un dito e non si ritrova nelle posizioni della maggioranza del PD, quindi sentiamo due punti di vista diversi. Ma prima fatemi dire due cose. La prima è la solidarietà assoluta agli ascoltatori che in Liguria e nel Piacentino sono stati colpiti da fenomeni naturali. Come sempre, quando arriva l'autunno si allaga tutto e scendono pezzi di valli e montagne. Da subito Radio 24 sapete che lo fa ogni volta. L'appello che vi faccio è che se ci dovete segnalare situazioni gravi che hanno bisogno di diventare di rilievo pubblico per aiuti, sostegni, per qualcosa che non funziona e così via, telefonateci, scriveteci e siamo pronti a fare la trasmissione dandovi la voce nei prossimi giorni. Scrivete anche a me, versione di Oscar, @radio24.it, lo abbiamo sempre fatto, e quindi oltre alla solidarietà tentiamo di dare un senso di servizio pubblico a Radio 24. Seconda cosa, è in atto un braccio di ferro sui profughi europei in Europa che a me sembra molto grave. Oggi pomeriggio sapete che la Germania ha fatto dietro front in questo fine settimana, rimettendo i controlli alle frontiere. Il ministro degli interni della Baviera ha detto che stamattina che i controlli alle frontiere verso l'Austria e verso i paesi confinanti con la Germania Est possono durare settimane e settimane. È chiaro che è un braccio di ferro, perché oggi al vertice dei ministri dell'interno europei i paesi scettici, che sono moltissimi, tutti quelli del centro Europa, Danimarca e altri, accettano rispettino le quote di ripartizione, oltre ai 32.000 del giugno scorso, degli altri 120.000 profughi da ripartire. A me sembra una maniera del tutto sbagliata e unilaterale di affrontare la questione, perché dopo aver annunciato unilateralmente da parte tedesca la porta spalancata ai siriani e ai profughi, era ovvio che questo comportasse un enorme problema per i paesi che hanno frontiere esterne dell'Europa, come l'Italia e come la Grecia, e i paesi di transito dei flussi, come tutti quelli che si trovano ad avere un problema, dall'Austria, alla Danimarca, all'Ungheria, alla Slovenia, alla Slovacchia. Allora, metterla sul braccio di ferro a me sembra completamente sbagliato. Io temo che o l'Europa fa un passo e si dà una struttura comune davvero dalle frontiere esterne ai paesi di transito, a quelli destinatari, ma una struttura comune europea. Ricordo a tutti che l'Unione Europea ha un fondo straordinario per affrontare disastri naturali, non ne ha uno per i disastri umanitari, come 1 milione di migranti. Ecco, oppure questa storia fa fare un passo indietro a tutti, perché torniamo alle frontiere e paradossalmente sono i tedeschi che avevano fatto la svolta umanitaria adesso, dopo 2 settimane, a dirci che questo è il ricorso necessario. Insomma, io sono molto senza parole. Sapete che non sono un antitedesco per pregiudizio, ma mi sembra che sia una cosa veramente incredibile quella che sta avvenendo. L'Italia ne sa qualcosa da anni, dell'indifferenza e dell'inadeguatezza dei mezzi europei a questa sfida, eppure con tutti i nostri difetti e delle nostre politiche inefficienti sulla migrazione non abbiamo mai posto un problema così gravissimo per tutta l'Europa come quello che stiamo passando in queste ultime ore. Vedremo se mi sbaglio, io spero di sì, e comunque ce ne occuperemo a ogni edizione dei GR per informarvi. Ma andiamo al punto di oggi, c'è la lezione di Jeremy Corbyn in Gran Bretagna, ne ho già tracciato brevissimamente il profilo, un bastian contrario marxista, insomma, che non si è mai nascosto dietro un dito, diventa leader a sorpresa per le elezioni dei non iscritti al Partito Laburista. Tra l'altro, novità, in 24 ore il Partito Laburista è cresciuto di 18.000 iscritti, proprio sull'onda di coloro che l'ha votato pagando 3 sterline alle primarie aperte. Pensate cosa sarebbe se il PD accettasse di scegliere il suo leader con primarie aperte tra tutti coloro che pagassero 3 euro. Certo, sarebbe molto diverso dal meccanismo di scelta del leader fino a questo momento, ma i laburisti hanno dovuto ricorrere a questo dopo la vittoria landslide inaspettata dei conservatori da solo, che hanno avuto la maggioranza assoluta alle ultime elezioni. Il più delle reazioni sono per interpretare la scelta di questa leadership come un nostalgico ritorno al passato. Vedremo se dal voto greco domenica prossima a quelli che si terranno in questo autunno, prima in Spagna, poi in Portogallo e così via, se è solo nostalgia o se c'è un problema di una sinistra che torna radicale in Europa, e quindi che cosa questo voglia dire anche poi per il PD, Renzi e i suoi oppositori al nostro interno. Allora, in questa prima parte della trasmissione ne parliamo con il professor Giovanni Sabatucci, che è uno storico e ha scritto stamattina, è un editorialista del Messaggero, ha scritto un fondo dal titolo "Se il leader incarna solo la protesta". Grazie professor Sabatucci di essere con noi. Grazie a voi. Allora, mi pare di capire dal suo fondo che lei dice questa leadership è una mano al populismo. Non ho detto esattamente questo, penso piuttosto che la vicenda inglese di per sé potrebbe rientrare in un fenomeno abbastanza noto e ricorrente, cioè una esplosione di radicalismo e di spiriti identitari nel momento in cui le cose vanno male, in cui il socialismo e la sinistra in generale non ha grandi risorse da ridistribuire, e potrebbe essere una cosa, ripeto, che abbiamo già visto altre volte, forse non in modo così evidente, ma l'abbiamo già vista. E ciò che rende, tanto per dirne una, lei lo richiama Michael Foot, sì, un leader laburista molto netto che condannò, sì, i laburisti con la sua sconfitta con la Thatcher a stare per 13 anni fuori dal governo. Sì, esattamente, si potrebbe andare ancora indietro al 1931, quando lo stesso leader dei laburisti, MacDonald, fu espulso in qualche modo dal suo partito, era anche presidente del consiglio, e perché voleva fare un governo di unione nazionale con i conservatori. Insomma, nella storia del Partito Laburista, che pure è tradizionalmente il più pragmatico, il più moderato fra tutti i partiti socialisti europei, ma è sempre un partito socialista comunque, Nella storia del laburismo britannico e del movimento socialista in generale queste cose ci stanno. Allora dov'è invece il dato specifico e secondo me abbastanza allarmante? Il fatto che questo tipo di risveglio identitario, questa protesta e questa radicalizzazione a sinistra è contemporanea a un fenomeno analogo di radicalizzazione a destra, comunque a una erosione dell'area di consenso dei partiti che siamo stati abituati a considerare come partiti di governo. L'area appunto dei partiti di governo, della moderazione che in qualche modo poi si impone proprio per le necessità stesse di una società complessa, ecco, quest'area si riduce e si riduce ovviamente in relazione a un periodo di crisi. Il paragone con gli anni 30 può essere sinistro, però insomma, in qualche misura può essere anche proposto. Quindi è la somma, io non penso, non ho mai pensato che un vecchio radicale come Corbyn, tra l'altro radicale come possono esserlo, come lo sono a volte gli intellettuali anglosassoni, no? Quelli che non hanno mai conosciuto in realtà il comunismo e il fascismo come li ha conosciuti l'Europa continentale. Ecco, non credo che un personaggio simile, per certi aspetti anche simpatico, sia da accostare appunto a movimenti di estrema destra o populisti in senso lato, eccetera. Però la somma di questi due fenomeni provoca una conseguenza che può compromettere, che riguarda la stabilità, cioè la minor forza, la stabilità delle democrazie allora europee. Le faccio una domanda per venire all'Italia. La settimana scorsa Paolo Mieli sul Corriere ha scritto un lungo articolo dicendo che i radicali di sinistra, cioè le sinistre più radicali, le svolte a sinistra nei grandi movimenti politici e socialdemocratici europei, esempio di Linke in Germania, in realtà ottengono un effetto, cioè quello di fare perdere la sinistra di governo e di fare un regalo alle opposizioni. Ora vedremo se questo capiterà in Gran Bretagna. I Tories pensano di sì, infatti festeggiano. In Germania è accaduto di fatto, perché infatti i socialdemocratici tedeschi attualmente si interrogano addirittura se devono presentare un candidato d'opposizione alla Merkel alle prossime elezioni. E Paolo Mieli diceva: guardate che questo rischio, cari amici dell'opposizione PD, lo correte anche voi, lo fate correre anche voi alla sinistra del governo italiano. Lei è d'accordo venendo all'opposizione PD, iniziando a ragionare sulla svolta Corbyn in Gran Bretagna, oppure no? Sono d'accordo, sì. Questo ovviamente non significa che l'opposizione interna al PD non abbia il diritto di manifestarsi, di scindersi se lo ritiene indispensabile. Non si può censurare in anticipo un atteggiamento di difesa all'ultimo, fino all'estremo, diciamo, delle proprie posizioni, della propria tradizione, della propria storia, se questa pare essere minacciata. Io non sono d'accordo con questa diagnosi, ma se qualcuno lo pensa è normale che poi alla fine ne possa anche trarre le conseguenze. Constato che la conseguenza in questo caso sarebbe probabilmente, con qualche probabilità, la fine dell'esperimento di governo Renzi, ovvero la sconfitta di un partito che ha preso il 40%, cosa mai successa direi da sempre per quanto riguarda un partito di sinistra di governo in Italia, e questa sarebbe la conseguenza. E in questo senso i radicalismi di sinistra contribuiscono a ridurre lo spazio, appunto lo spazio in cui si muovono i partiti. Le diverse contrapposte proposte di governo. Tesi chiara quella del professor Sabatucci, che ringraziamo. Torniamo dopo l'informazione stradale tra un minuto con il senatore Massimo Mucchetti, giornalista, lungo Corriere della Sera, e così via, giornalista economico. Ovviamente Massimo Mucchetti non rappresenta, per così dire, l'area interna alla storia di opposizione del PD. cioè Massimo Mucchetti non è Civati, non è Fassina e così via. Però Massimo Mucchetti, dal ruolo dello Stato nell'economia, dalle critiche al governo, dal Senato e la riforma costituzionale, a oggi è considerato un parlamentare del PD, che arriva al PD da esterno, da giornalista, però dell'opposizione. E allora, siccome è un giornalista, è un osservatore, lo conosco da anni, lo stimo da anni, chiedo anche a lui, dopo la pausa, cosa pensa della svolta del radicalismo a sinistra, oggi con Corbyn, ma poi Spagna, Grecia e così via, che cosa vuol dire per lui in questo PD il tipo di scelte e di proposte concrete che fa Jeremy Corbyn. Ripeto, levare l'autonomia a ben convenga, nazionalizzare le banche e cose di questo genere. Tra un minuto intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci, tornate in diretta, 16:47 primi 30 secondi, stiamo partendo dalla notizia di questo fine settimana, la leadership nel Partito Laburista Britannico di Jeremy Corbyn, un dissidente radicale che diventa leader grazie alle primarie aperte a tutti coloro che pagavano 3 sterline, paleomarxista secondo molti, secondo altri un ritorno nostalgico che regala al governo per anni ai conservatori. Però sta di fatto che le risposte alla crisi del radicalismo di sinistra rispetto ai vecchi partiti socialdemocratici, accusati da molti elettori e da parlamentari dissidenti di essere piegati troppo alla logica del mercato, dell'autonomia delle banche centrali e così via, beh, in molti paesi europei è diventato un tratto di questi anni. E allora, per venire a casa nostra e capire cosa ne pensa, appunto, ai nostri microfoni c'è un giornalista, un grande giornalista economico italiano, secondo me, che oggi è in questa legislatura presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato. Massimo Mucchetti, grazie di essere con noi, Massimo. Ciao, grazie a tutti. Per te, questa leadership di Corbyn, cosa vuol dire per l'Europa e cosa vuol dire per il modo in cui vedi il PD in Parlamento e la sua leadership le prossime elezioni? Ma io intanto osserverei che la scelta di Corbyn da parte di un partito laburista che si rinchiude su se stesso, ma che nello stesso tempo ritrova un entusiasmo che aveva perduto, dovrebbe porre degli interrogativi prima di tutto alla sinistra riformista, cioè a Tony Blair. Tony Blair dovrebbe domandarsi: ma perché io non ho avuto eredi? Come mai? Come mai chi la pensa come me è stato bocciato dal partito e dal corpo elettorale? Questo io credo che sia una domanda che dovremmo porci, altrimenti diciamo destino cinico e baro. Vorrei ricordare che questo, anche rispetto alle sinistre italiane, Corbyn è una specie di Bertinotti, non è una specie di Bersani, per capirsi come, ma lo dico con rispetto, giusto per fare la cronaca, certo. Come facevo il giornalista, mi piace. E non lo associerei tanto alla, diciamo così, alle minoranze DEM, le quali tra l'altro si ritrovano su alcune partite, ma non è che sono una corrente perfettamente organizzata, ma farei presente che in Italia il grande amico di Blair e di Clinton si chiama Massimo D'Alema, non si chiama Renzi. Renzi è arrivato dopo, come dire, quando Renzi arriva Blair non c'è più. In politica internazionale sono state ricordate alcune posizioni di Corbyn. Alcune sono discutibili, altre meno. E per esempio, quando Corbyn dialogava con i nazionalisti irlandesi, preparava quella che è stata poi la soluzione. Poi non è che l'ha fatta lui, però aveva una posizione che era nel solco della storia. Chi non aveva capito niente era la Thatcher. Era la Thatcher, sì, con questo. No, di fatto sull'Iraq, sull'Iraq, ragazzi, stiamo ancora pagando le conseguenze di quel clamoroso errore dell'Occidente. E credo che questo spieghi molto dell'eredità bleriana, la guerra in Iraq, eccetera, secondo me, da dove sei partito tu, non so come la pensi. Stellate storiche. E dal punto di vista poi più in generale, il ruolo dello Stato, è stato detto, Corbyn vuole nazionalizzare le banche. E in Inghilterra le banche sono già state nazionalizzate, 5 delle principali, tra cui la grandissima Royal Bank of Scotland. ve la ricordate? Lo Stato è ancora dentro, è dal 2008, siamo nel 2015, non è ancora uscito. Come mai? Allora, infatti lui dice, visto Stato, che le abbiamo usate, invece di adesso uscirne eccetera, il problema è che le abbiamo salvate con i soldi del contribuente, ma non siamo riusciti a ottenere dalle banche un management che poi aiutasse l'economia. Questo è il nocciolo del ragionamento di Corbyn. Siamo sicuri che è molto sbagliato. Come, poi dopo le soluzioni pratiche, io credo che Corbyn, come dire, vada ripensato, rivisto, eccetera, eccetera. Ma le banche centrali, ma all'origine della bolla gigantesca che ha travolto il mondo, chi l'ha fatta, Corbyn o le banche centrali? E soprattutto i bastassi di Greenspan. No, questo figura. Ma io questo contavo infatti che tu dicessi. Cioè, anch'io penso che non sia un ritorno al passato. Ci sono tante cose su cui riragionare. Poi, Corbyn secondo me è un estremista, non so come riuscirà. Vedremo cosa davvero farà. Ma secondo te, è del tutto fuori luogo quindi fare paragone con il dibattito dentro il PD? Io trovo abbastanza forzato, nel senso che poi questo per esempio il professor Sabatucci dice ma ipotizza, esprime dei giudizi sull'ipotesi di una scissione, ma non c'è questa ipotesi sul tavolo, non esiste. Io credo che il PD, voglio dire, se noi prendiamo la storia del Labour, il Labour è un partito secolare che ha avuto momenti di diciamo così di sinistra e momenti di destra, se vogliamo usare questo semplificare, tipo di, certo, semplificando. Poi c'è stato qualcuno che è uscito, qualcuno che è entrato, però insomma il corpaccione del partito quello era quello. Dico, ma perché la stessa cosa non può succedere nel PD? Cioè, voglio dire, prima, cioè, Renzi esiste, poi anche qui, come prima dico che Corbyn dovrebbe far riflettere i socialisti riformisti, i bleriani vecchi e nuovi. Ma Renzi a sua volta dovrebbe far riflettere i daleniani vecchi e nuovi, i bersaniani vecchi e nuovi, perché se Renzi oggi è il leader del PD, lo è per come dire, i difetti che hanno avuto le gestioni precedenti. Diciamo anche per una somma di errori proprio macro evidenti. Ecco, all'inizio di questa legislatura non ci dimentichiamo che cosa è avvenuto. Forse anche il ruolo del presidente Napolitano può essere sottoposto a una gentile e laica revisione, non è mica santo neanche lui. Cioè, voglio dire, c'è tutto un mondo che va ripensato laicamente, uscendo da questi schemini delle contrapposizioni, sui quali, devo dire, il Premier ci gioca, perché così evita il dibattito nel merito. Allora, io ti fermerei su questa frase, perché mi piace molto il tuo invito a ragionare, perché si arriva ai Corbyn nella sinistra europea, io lo sposo, e anche a evitare il fatto che poi ci si possa giocare dalle contrapposte leadership all'interno della sinistra. Stiamo rapidissimamente, Daniele dalla provincia di Roma, un ascoltatore, come la pensa? Perché non ho potuto dare la linea a nessuno. Daniele, come la pensi? Ti piace Corbyn? Sì, no, io sono, anche se non lo conosco molto, però sono d'accordissimo col suo ospite che ha parlato poc'anzi. Massimo Mucchetti, in realtà il discorso è semplicemente questo, non è un rimascismo, un ritorno, noi dobbiamo essere più pratici. Il discorso è che a livello mondiale sta passando e continua a passare il discorso di chi fa i guai e gli altri pagano i danni. Le banche sono l'esempio più lampante. No, beh, le grandi io penso che, come Daniele, come lei, ce ne siano molti più di quanto non si capisca, e devo dire che anche i media italiani forse hanno un po' di responsabilità, noi giornalisti. Intanto grazie a Massimo Mucchetti, a Giovanni Sabatucci, continuate con Radio 24, appuntamento come domani. Ricordate, dalla Liguria, dal Piacentino, scriveteci se vi serve una mano qui da Radio 24. Grazie a tutti.